Diciamo che possiamo fare un discorso, come dire, generale e particolare. Il discorso generale è che, come sappiamo, purtroppo la lettura, quindi diciamo, l'editoria nel nostro paese non sta vivendo sicuramente un periodo florido. All'interno di questi problemi che ha l'editoria generale in Italia e, ahimè, purtroppo la lettura, soprattutto da parte dei più giovani, quello che riguarda i fumetti è una crisi ancora più accentuata. Qualcuno potrebbe dire che da quando si parla di fumetti in Italia si parla del fumetto che è in crisi, se ne parlava addirittura negli anni 70 di fumetto in crisi in Italia, quindi sono 50 anni che siamo in crisi in sostanza. Ciò detto, in realtà quello che abbiamo in Italia è una produzione molto vasta di fumetti di tutti i tipi, sia diciamo così nostrani, quindi fatti da editori italiani con autori italiani, sia di importazione, quindi fumetti che vengono pure più dagli Stati Uniti e naturalmente per quanto riguarda i manga dal Giappone. Da questo punto di vista abbiamo sicuramente una grandissima varietà, abbiamo però un problema di, come potremmo dire, di canali distributivi che si aggiunge oppure diciamo così si rincorre come causa ed effetto con la crisi che dicevamo prima. Il principale canale di vendita dei fumetti nel nostro paese sono sempre state le edicole. Ora le edicole negli ultimi 15 anni si sono praticamente dimezzate in Italia, perché per problemi che sappiamo, chi è che compra più un quotidiano in edicola, ormai una volta si andava a comprare il quotidiano e magari ci si aggiungeva qualcos'altro. Le edicole nel frattempo hanno dovuto inventarsi qualche altro modo per sbarcare il lunario, quindi hanno messo magari altre cose al posto di giornali, fumetti e quant'altro, tutto caso, slot machine mettiamo, no? quelle che hanno gli spazi più grandi. Diciamo quindi che in generale il fumetto si inquadra in Italia in una situazione abbastanza poco brillante. D'altra parte abbiamo in Italia una serie di editori, di sceneggiatori e di autori che sono fra i migliori al mondo, tanto per dire abbiamo la migliore scuola Disney di tutto il mondo, perfino la scuola Disney americana è inferiore sia come tradizione sia come stato attuale a quella italiana. Abbiamo un grande editore come Sergio Bonelli che ha fatto la storia del fumetto italiano e che ha tuttora il fumetto più letto e venduto in Italia, quel Tex che ha festeggiato i 70 anni di vita. Dall'altra parte abbiamo Diabolik, per esempio, che è un altro personaggio sempreverde che continua a rimanere sugli scudi, sempre per rimanere in casa Bonelli. Abbiamo Zagor, che continua a essere un personaggio seguitissimo, nonostante anche lui sia piuttosto vetusto. Quindi pare sostanzialmente che il fumetto in Italia venga sostenuto da un numero sostanzialmente piuttosto esiguo, almeno che si va restringendo, di lettori che sono, diciamo così, non sicuramente giovani, sono lettori che probabilmente leggono i fumetti perché sono molto attaccati a ciò che gli ricorda il loro passato, la loro infanzia, sono molto attaccati a determinati personaggi, questo spiega il successo di come dire, praticamente inalterato di personaggi per l'appunto come Tex, come Diabolik. C'è stato in mezzo, se vogliamo, il fenomeno di Dylan Dog, anche questo ormai comincia a essere però un fenomeno piuttosto attempato, anche il personaggio di Sclavi è arrivato in edicola al numero 400 ormai, quindi scusami Paolo, ma Dylan Dog è un po' in discesa, diciamo. Nel senso entrano, ci sono meno lettori, posso dire, si sta un po' perdendo il suo pubblico, cosa diciamo dici? Diciamo che è sempre tutto molto relativo, nel senso che per esempio sta perdendo pubblico da una parte, lo sta acquistando dall'altra. Per esempio una delle critiche che vengono fatte alla nuova conduzione di Dylan Dog è quella di avere virato con la conduzione di Roberto Recchioni su alcune più che tematiche, su alcuni modi di porre il personaggio abbastanza inusuali, perché io seguivo prima, per cui c'è stato chi diceva era meglio il Dylan Dog originario di Sclavi, e chi dice no, occorreva comunque una svolta. Comunque se voi andate in edicola di Dylan Dog non ne trovate uno, trovate il Dylan Dog della serie originale, trovate i Dylan Dog Old Boy, che sarebbero le pubblicazioni, diciamo così, che sono rimaste attaccate alla vecchia formula del personaggio. Ci trovate ancora il Dylan Dog speciale Pianeta dei Morti, ci trovate tante cose, diciamo così, tanti formati di Dylan Dog che sembrano fatti apposta per cercare da una parte di mantenere il vecchio pubblico e dall'altra di trovarne del nuovo.